Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Se ti vedo, la voglia mi si toglie. Angels passing by, darling, darling. I used to say we will meet again someday. Maybe, maybe the perfect night. I've told myself tonight. Wake up, fly. Servizio di segreteria telefonica. La preghiamo di attendere. Dopo il segnale acustico, registri il suo messaggio. Oggi mi spiace di questo telefono. Voglio chiederti se c'è la compilation per me, una per mio cugino Pino che ci voglio bene, così c'è un regalo, eh. E un altro fiorisce. Un disco finisce e l'altro fiorisce. I'm not. su Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Che poco coglie, quando cammina cadono le foglie. Raghi, roba di pubblicità. Thank you. a ballare sabato sera in un locale dove si suona tanta musica elettronica, perché a noi, tutta la nostra compagnia di amici, ci piace la musica elettronica, perché la musica elettronica... Questa canzone mi piace dentro, mi piace dentro, mi piace dentro. Ora scusate, non ho più tempo. Tight wind. modo c'è per diventare migliore. Inizia a viaggiare col cuore. Più los 20 fa los 30, meno 20 fa los 10, più los 30 fa los 40. E il conto storna così, no? Oh, ciao, ci vediamo domani, los 40. Ciao, vai Fabiola.